Italia in controluce, la politica nel tunnel. Eccoci qua nella nuova veste d'Italia in controluce, tutta dedicata alla complessa situazione politica uscita dalle urne e all'impasse che si è determinata ora. Oggi appuntamento cruciale, lo avete sentito nei nostri GR del mattino, per il Partito Democratico, partito che pur perdendo consensi, pur con tutti i problemi che abbiamo sottolineato in questi giorni, sarebbe quello tecnicamente chiamato a formare il nuovo governo, almeno a provarci. Oggi dicevamo la direzione del partito, direzione molto attesa, molto importante. Il primo a parlare questa mattina ad aprire i lavori è stato proprio lui, il segretario del partito, Pierluigi Bersani. Niente invece da Matteo Renzi, che addirittura a un certo punto se n'è anche andato, forse era un po' annoiato. Lo chiediamo alla nostra Elisabetta Fiorito, con cui cerchiamo di ripercorrere questa giornata, che peraltro non è ancora finita, perché come sentiamo dal sottofondo sono ancora in corso gli interventi, non li sentiamo ma fra un po' li sentiremo, eccoli qua, sono in corso gli interventi dalla direzione del Partito Democratico. Elisabetta Fiorito, allora, come stanno andando i lavori? I lavori proseguono e bisogna dire che Pierluigi Bersani replicherà a tutti quanti alle 18. Proprio l'ha detto adesso il vice segretario del partito Enrico Letta, spiegando che alle 13.30, cioè adesso, gli iscritti a parlare sono 52 addirittura, Piera. Quindi la novità invece vera è questa trasparenza di questa riunione dei democratici, perché hanno deciso di aprire allo streaming, per cui tutti quanti possono andare sul sito di UDEM e seguire i lavori. Quindi questa è stata la grande novità. Grande novità suggerita forse dai grillini, no? Che hanno fatto la stessa cosa nei giorni scorsi, sembra un po', no? Una mezza copiatura? Certo, io direi proprio che a questo punto, no, la politica cambia anche grazie in questo ai grillini, perché c'è questa assemblea aperta a tutti, e questo è sempre stata una cosa che il Partito Democratico ha cominciato a fare con UDEM, però adesso ancora di più. Certo, allora dicevamo ad aprire i lavori e poi stasera a chiuderli, come ci hai annunciato tu in diretta alle 18, il segretario del partito Bersani. Bersani ha fatto una così, ha elencato un po', diciamo, anche gli errori fatti, no? Dal suo partito c'è stato un po' un piccolo mea culpa. Vogliamo cominciare proprio da qua, Elisabetta? Facciamo sentire quali sono state le parole di Bersani. Primo, c'è una sofferenza sociale acuta in una parte larga della base potenziale o tradizionale del consenso del Partito Democratico. Secondo, questa sofferenza sociale, il blocco dei processi di riforma della politica, la percezione di inutilità e di impotenza della politica ci fanno leggere largamente omologati a un sistema che non gira. Nel profondo, perfino ancora l'esistenza di Berlusconi ci viene attribuita in qualche misura come una colpa. Terzo, tutte queste sono dinamiche che non solo non hanno avuto lenimento, ma si sono accentuate nell'esperienza del governo Monti, in particolare sul fronte sociale. Possiamo dire di non aver colto tutto questo? Io credo sinceramente di no, non è che non l'avessimo visto, noi abbiamo cercato scelte in controtendenza rispetto a questo, e le primarie per leadership parlamentari, e lo sforzo di caratterizzazione durante la fase Monti su alcuni acuti temi sociali, e anche in campagna elettorale parole d'ordine di cambiamento dal lato dell'etica pubblica, del sociale. Io credo che senza questo l'onda d'urto ci avrebbe investito ancora più frontalmente, ma questo non è stato sufficiente a fare di noi riferimento vero di una spinta al cambiamento. Elisabetta, dunque, insomma, qualche errorino Bersani lo ha anche ammesso. Sì, diciamo anche che la campagna elettorale non è andata bene, perché è stata una campagna elettorale presa un attimo in sordina all'inizio dal Partito Democratico, mentre Beppe Grillo andava nelle piazze e Silvio Berlusconi tornava a farsi sentire. Quindi evidentemente è chiaro che doveva fare un mea culpa il segretario, però ha anche detto tutto di essere pronto a fare un governo con 8 punti, che ricordiamo quali sono: ci sono misure urgenti sul blocco sociale, riforma della vita politica e pubblica, voltare pagina su giustizia ed equità, conflitto di interessi e doppi incarichi, economia verde e sviluppo sostenibile, qui un po' strizza l'occhio ai grillini, matrimoni gay e cittadinanza per chi è nato in Italia. Quindi Bersani dice che è pronto a governare. Sentiamo questo passaggio. Noi siamo pronti, se chiamati, a proporre al Parlamento un governo di cambiamento sulla base di un programma essenziale. Il programma essenziale che compito ha? Ha il compito di rimuovere le barriere più pesanti che si frappongono fra istituzioni, politica e opinione pubblica e di mettere mano ad alcune urgenti misure sociali. Il compito cioè di aprire la strada alla legislatura. Grillo, un po' una sorta di convitato di pietra della direzione del partito di oggi, del PD. Insomma, in effetti ha scompaginato un po' la compagine politica di questo periodo e ha costretto, sta costringendo tutti i partiti politici tradizionali a ripensarsi. Allora, sentiamo insieme anche le parole di Bersani proprio su Grillo. Davanti al Paese ognuno prenderà le sue di responsabilità. In particolare, chi ha avuto il consenso di oltre 8 milioni di elettori e ha scelto una via parlamentare, non extraparlamentare, deve dire che cosa vuol fare di questi voti per l'Italia. Il destino dell'Italia e dei nostri figli in un tornante drammatico della nostra storia non può ridursi, che so, a una proposta sulla raccolta differenziata, su cui possiamo facilmente intendersi, ecco. 5 Stelle pensa di scegliere fior da fiore, di tenersene fuori? Aspetta il facile bersaglio di un accordo spurio di palazzo su cui sparare a palle incatenate? Aspetta una sorta di autodistruzione del sistema politico senza che nemmeno 5 Stelle debba lasciarci le impronte? Spera che su tutto questo noi si stia fermi e muti? Se è così, fanno dei conti sbagliati. E poi c'è, ovviamente, sono stati tantissimi interventi che proseguono anche adesso, fra cui quello abbastanza atteso di Massimo D'Alema, che ha fatto un'analisi davvero interessante degli orrori fatti, dell'ultimo spicchio di storia del partito. Lui, che la storia del partito la conosce molto bene per averla anche fatta. Ora invece si sarebbe messo fuori dai giochi anche sulla spinta del rinnovamento voluto anche all'interno da Matteo Renzi, anche se di lui si parla come di un possibile ministro degli esteri. Sentiamo le parole di D'Alema proprio su Grillo e su queste spinte di rinnovamento, o quello, come dice lui, finto rinnovamento del suo partito. Si è identificato il rinnovamento con la liquidazione di un gruppo dirigente. Benissimo, io mi sono autoliquidato felicemente, ho fatto la mia campagna elettorale con passione, diciamo, senza essere candidato. Non è che ho avuto l'impressione, diciamo, che il ceto politico che avanza venga percepito dal paese come molto nuovo, al di là degli aspetti generazionali. Noi facciamo tante cose nuove, ma un signore di 65 anni che fa le riunioni a porte chiuse e prende a calcio i giornalisti, tutte cose molto vecchie, appare più nuovo di noi. Torniamo a collegarci con Elisabetta Fiorito per l'ultimo minuto di Italia in Controluce, perché se da parte di Bersani, il Partito Democratico, è arrivato un no ad un governo con il PDL, stanno cominciando ad arrivare anche delle reazioni da quella parte. Sì, intanto bisogna dire che Angelino Alfano dice Bersani rifletta, così il paese va a sbattere, noi lo invitiamo a riflettere, e anche Leone ci ha detto poc'anzi, ma Bersani non ha proprio i numeri per fare questo governo. Sentiamo. Bersani vi chiude definitivamente la porta, dice mai più, mai un governo con il PDL, ma allora dove si va a finire? Ah, io penso che Bersani non abbia capito dove va a finire nel momento in cui chiude la porta al PDL, dice che i Monti e il suo centro non sono determinanti ai fini della possibilità di governare, quindi l'unica scialuppa di salvataggio è il Movimento 5 Stelle. Alle 18 dunque le conclusioni di Bersani. Ringraziamo da Roma la nostra Elisabetta Fiorito, che ritroveremo nell'approfondimento politico delle 16.45. Approfondimenti politici che potete ritrovare, riascoltare con più calma dal nostro sito radio24.it. In regia Gianmarco Ferronato. Un saluto da Maria Piera Ceci.